9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, giovedì 16 giugno, ricordate quante puntate nell'ultimo anno e mezzo abbiamo dedicato alla crisi dell'eurodebito quando esplose il caso della Grecia? Era l'autunno del 2009, pensate, quando subito dopo le elezioni che fecero cambiare segno alla coalizione di governo in Grecia, da un governo conservatore al governo del PASOK socialista, quello di Papandreou, si capì nel giro di pochissimo tempo che i conti pubblici greci erano gravati da un falso in bilancio, rispetto al quale peraltro non è vero che non ci fossero i segnali, perché già guardando bene negli anni precedenti, nei documenti europei, si capiva che una certa consapevolezza della gravità delle manomissioni di quei conti c'era, solo che era ristretta, e se non che poi dopo la grande crisi mondiale, un anno dopo, ecco che anche l'Europa entra con una crisi tutta sua, la crisi dell'eurodebito, che ci fa apprendere come l'euro, fino a quel momento considerato una garanzia per tutti, non è solo uno scudo, ma può diventare anche una gabbia, può diventare una gabbia per quei paesi che con la Grecia avevano truffato, ma che magari avevano anche problemi di ordine diverso, magari avevano un eccesso di bilancio dei pagamenti sbilanciata, come nel caso portoghese, o nel caso spagnolo avevano bolla immobiliare e anche un problema di una parte del proprio sistema del credito, o come l'Irlanda avevano un problema gravissimo di bolla immobiliare e anche in quel caso un problema di attivi patrimoniali delle banche che saltavano, insomma problemi diversi, ma abbiamo appreso nel giro di poche settimane, partendo dalla crisi greca nell'autunno del 2009, che l'eurodebito era un problema, che non c'era solo l'America che doveva ridimensionare i propri consumi interni finanziati a debito negli anni precedenti e con la missione della Cina al WTO, ma l'Europa aveva un problema, doveva riallineare la propria finanza pubblica da una parte al rigore, doveva riallineare i valori degli asset in bolla a valori deprezzati, con tutto quello che questo significa quando ci sono i liberi patrimoniali delle banche di mezzo, doveva soprattutto in alcuni paesi allineare la produttività alle possibilità di quel paese stesso, e in casi come la Grecia è molto molto pesante. E tutto questo doveva farlo tentando anche di non far esplodere la crisi, il default di uno dei paesi dell'euroarea, perché ne sarebbe andato di mezzo l'euro. Ecco, a un anno e mezzo di distanza ci troviamo nelle attuali condizioni. Come vedete, per le strade di Atene disordini violentissimi, con forze dell'ordine travestite che li alimentano anche, perché le cronache dei giornali di tutto il mondo, non solo greci, questo confermano, di quello che è avvenuto ieri, perché è la stessa Grecia ufficiale che non ne può più, per così dire. Perché non ne può più? Non ne può più perché in un anno e mezzo, dopo i 110 miliardi che sono stati prestati col Fondo Monetario d'Europa l'anno scorso alla Grecia, la Grecia che ha perso quasi 6 punti di PIL nel frattempo, disoccupazione elevatissima, servono altri 100-110 miliardi per evitare il default, ci ha detto 3 giorni fa Deutsche Bank, e ancora una volta quindi si parla di ripartirne gli oneri tra Europa, Fondo Monetario e un'altra manovra di quelle pesantissime di rigore, altri 28-30 miliardi di euro di manovra greca, e la Grecia non regge più questa situazione. E nel frattempo i suoi spread sui titoli sono arrivati a pagare il 15% in più sui decennali, cioè l'ira di Dio, il 16% in più rispetto ai decennali tedeschi, si trascinano dietro gli spread sul Bund tedesco anche dei titoli portoghesi e irlandesi, quindi si è rialimentata una crisi di un evento traumatico di qualcuno di questi paesi di qui al 2013, l'onere del salvataggio cresce, il prezzo per la decrescita dei paesi eurodeboli cresce, si alimenta protesta da parte delle opinioni pubbliche che chiamerà meno l'Europa, si volge al nazionalismo, al protezionismo, all'autarchia, allo sciovinismo. Di tutto questo alcuni iniziano a pensare che la colpa vera non sia più solo di coloro che non avevano i conti in regola, ma la colpa vera sia dei paesi leader dell'Europa, a cominciare dai tedeschi, che pure hanno rigore di finanza pubblica, che invidiamo, grande produttività, è il paese che più si avvantaggia nel commercio mondiale sui mercati asiatici, ma che al contempo, come agli elettori greci non fu raccontato per anni che i loro conti pubblici erano menzionieri e che vivevano al di sopra delle proprie possibilità, allo stesso modo si inizia a pensare che si paga un prezzo troppo amaro perché la Merkel non voglia raccontare agli elettori tedeschi fino alle prossime elezioni che anche la Germania deve, è interessata a mettere mano al meccanismo di eurosalvataggio, perché altrimenti salta l'euro e ci rimettono tutti, e che non è vero che tutti possono con una bacchetta magica adottare le stesse regole, ma che bisogna dare una mano a chi parte da posizioni più svantaggiate, perché certo ha fatto anche la cicala, ha sbagliato e ha mentito, ma che però per essere instradato al rigore e alla produttività ha bisogno del tempo giusto, senza condannare i paesi a buttarsi nel gorgo della deflazione e dell'esplosione sociale. Ecco, alcuni iniziano a pensare che la dilazione, aver detto che fino al 2013 non nasceva il nuovo meccanismo l'ESM di salvataggio europeo, aver previsto che solo dal 2013 i titoli del debito pubblico emessi sui mercati chiederanno la compartecipazione al rischio degli emittenti, è stato come dire al mercato: guardate che fino al 2013 potete scommettere che qualcuno degli euro deboli salti. I mercati a questo hanno creduto, la Grecia si è beccata 12 downgrading, sta nelle condizioni che sta e siamo come prima, peggio di prima di un anno fa. Di chi quindi la colpa? È possibile che i paesi più forti dell'Europa non lo abbiano capito? È fondata questa domanda di chi dice loro oramai hanno una colpa della mancata soluzione, della dilazione e diluizione del problema almeno altrettanto forte dei paesi cicala? È giusto o non era giusto che una parte dei costi fosse anche spalmata con la creazione di un euro debito, gli euro bonds? L'Italia lo ha chiesto fin dall'inizio, però l'Italia, lo sappiamo, non ha credito a questo tavolo perché è un paese ad alto debito. Però è vero o non è vero che senza Europa politica e quindi anche senza debito pubblico condiviso l'Europa politica non c'è, e allora l'unione monetaria senza unificare i mercati né un'Europa politica è condannata al fatto che i mercati, come giusto, credano che a quel punto, piuttosto che saltare se non si è in regola davvero con i criteri di produttività e di finanza pubblica, i paesi è meglio che escano dall'euro piuttosto che inabissarsi per difendere l'euro? Ecco, tutte queste domande ai nostri tre ospiti. Cominciamo a presentarli. Sono con Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, che vive ad Atene. Buongiorno Antonio Ferrari. Buongiorno Giannino. Il professor Giacomo Vaciago, lo conoscete, insegna politica economica alla Cattolica di Milano, punto di riferimento per questa trasmissione in tutte queste vicende non solo. Buongiorno professor Vaciago. Buongiorno a tutti. E la voce, diciamo, del rigore germanico per antonomasia nel panorama della stampa che ogni tanto vi propongo, Tobias Pilder, il corrispondente della Frankfurt Allgemeine Zeitung in Italia. Ecco, io comincerei, oltre a salutare Tobias Pilder, proprio da te Pilder, nel senso che l'accusa alla Germania di diluire, dilazionare per non raccontare la verità ai propri elettori è un'accusa oramai pesante. Si è detto il più del debito stava all'inizio nelle banche tedesche e francesi, i tedeschi e i francesi hanno detto non vogliamo rimetterci né il capitale né niente, quindi prendiamo tempo. Quanto è fondata secondo te questa accusa, quanto è l'invenzione dei paesi cicala invece? Il punto iniziale è quello che i greci accusano ancora la Germania o la Merkel che non ha reagito subito, nel senso che la Merkel doveva prendere l'aereo con un gran libretto di assegni, andare a Atene e dire quanto vi occorre. Ma questo mi sembra avrebbe solo allungato l'illusione che la Grecia poteva vivere al di sopra delle sue possibilità e che poi dopo la Grecia si poteva anche salvare chiunque. Il punto è quello che i mezzi sono ristretti in tutti i paesi, anche la Germania non è un gigante, gli italiani lo ricordano tante volte quando gli va a dire che la Germania deve decidere il tutto, che è anche giusto, e allora ognuno deve in quel senso ricorrere anche sui propri mezzi, e questo è anche stato il principio fondatore dell'unione monetaria. Secondo problema è il collegamento tra banche e stati. Così ci sono banchieri che hanno investito tanti mezzi in titoli greci che rendono 20-25% e poi dopo un anno vogliono dire io ci ho guadagnato tantissimo con i soldi della banca, voglio un grande premio. Ma dimenticano che è attaccato anche un rischio e amaramente i risparmiatori italiani che avevano investito in bond argentini hanno dovuto penare per questo. Perché un banchiere tedesco, francese, chiunque sia, deve sempre essere salvato se ha sbagliato il calcolo tra rischio e investimento, se ha investito troppo in titoli greci per salvare la propria banca? In quel senso il mio giornale e tanti altri economisti dicono bisogna scindere questo problema così. Prima discutiamo sulla Grecia, sull'unione monetaria, se bisogna far fallire la Grecia e fare un processo di ristrutturazione del debito è una cosa. Dopo vediamo se c'è anche qualche banca in crisi, ma se una banca va in crisi certamente verrà decapitata, verrà commissariata e poi è anche questa una lezione per banchieri che pensano che c'è sempre un governo dietro a staccare gli assegni. Ora, Tobias Spiller, come vedete, accetta metà del ragionamento, cioè dice, no, il rigore, non illudete che i tedeschi possano risolvere i problemi di tutti, il rigore è necessario, però, la realtà è che se si fosse intervenuti tra ottobre, novembre e dicembre del 2009 su una ristrutturazione del debito greco, accettando la realtà che era inutile buttare in deflazione quel paese imponendogli un 5% sui prestiti aggiuntivo sul tasso europeo, perché se un paese cresce almeno 5%, gli dai un prestito al 5%, per definizione è insolvente su quello stesso prestito nel frattempo. Però, detto questo, Tobias Spiller riconosce che la ristrutturazione del debito fatta prima sarebbe stata probabilmente molto meno onerosa per la Grecia e con una perdita di capitale per i titolari dei titoli pubblici greci, diciamo tra 10, 15, massimo il 20%, mentre oggi è molto più onerosa. E quindi il problema, sua ammissione, è stato quello di salvare le banche francesi e tedesche, perché le banche francesi e tedesche nell'ottobre-novembre del 2009 avevano quasi 2/3 del totale dell'esposizione greca, nel frattempo hanno disintermediato e sono scese oggi a 1/3. Io la aderisco alla sua linea, bisognava fin dall'inizio avere politici capaci di dire ai signori banchieri, ma qualunque sia il colore politico del controllo proprietario delle banche, signore, se i vostri attivi sono pieni di titoli ad alto rischio perché vi piacciono gli alti rendimenti, cavoli vostri, e che i vostri azionisti capiscano che se voi preferite questo tipo di scelta un po' rischiosa, magari dovrete perdere una parte del capitale e quindi perderete il posto perché i vostri azionisti vi cambino. Io sono molto di questa idea. C'è un piccolo problema, sì. È quello che tanti politici europei hanno avuto paura di quel rischio di andare verso una ristrutturazione del debito greco, perché non ci sono le regole per il fallimento di uno Stato per la ristrutturazione. Lo so, però bisogna creare entro 2013. Ho capito, però il problema è che nei momenti di difficoltà si vedono le classi dirigenti. Se le regole non ci sono e crediamo che per difendere l'euro basta non aver previsto un meccanismo di uscita, magari anche temporanea, o di ristrutturazione di un debito di un paese che non è in linea con gli standard dell'euro, ci illudiamo, perché nel frattempo diamo solo l'idea che il mercato, che non sappiamo trovare una risposta a una grave difficoltà. Professor Vaciago, lei come la pensa? Beh, la penso esattamente come la state dicendo voi due. In altre parole, hanno fatto tutti del loro peggio, perché anche la posizione tedesca non sta ferma, perché io non ho mai visto i pompieri girare per la città gridando c'è un incendio, c'è un incendio. Carina questa. Perché è quello che è successo nel dibattito tedesco, i ministri, Weber si è dimesso ed è stato sostituito malamente da un consigliere della Merkel. Weber e questa non è la buona ricordiamo. E questa non è la buona tradizione tedesca. Allora raccontiamola tutta. Il 10 maggio di un anno fa i governi dicono a Trichet: tu salva la Grecia e noi ti garantiamo la schiena. Da allora la BCE si è riempita di carta greca come collaterale o come acquisti diretti, e adesso il cerino in mano l'abbiamo dato alla BCE. Sì. Dove erano i governi? Sì. Allora non si può scherzare con gli incendi. Attenzione, la dimensione del problema greco sul totale della ricchezza dell'Europa è infinitesima, ma se i governi invece di governare i giorni pari dicono il problema prima o poi lo risolviamo, state tranquillo, e i giorni dispari gridano al fuoco, io di quei governi non so cosa farmene. Torniamo al problema. Per 10 anni, e questo lo chiamo l'effetto Strauss-Kahn, quando si scopre che la polizia di New York l'arresta, tutti dicono l'abbiamo sempre saputo che è un maiale. Beh, ma potevate anche dirlo prima. È l'effetto Strauss-Kahn. Allora, la Grecia ha imbrogliato per entrare nell'euro e lo sapevano tutti. Doveva essere un vigilato speciale. Dove erano le banche tedesche e francesi quando si riempivano di carta greca, sapendo benissimo che quel paese si indebitava a tassi tedeschi non per convergere, per fare investimenti che aumentano la produttività. Questo era il sogno dell'euro. Grazie all'euro i paesi che dovevano fare ancora il catching up, e ci metto anche l'Italia, sì, si potevano indebitare a tassi tedeschi perché diventavano la Germania. Certo. E per 10 anni chi ha sprecato questa opportunità della sua vita adesso si trova che ha fatto debiti come fosse un americano, esatto, cioè per consumi. Esatto. E bravo, e adesso chi li paga quei debiti? Esatto. Allora, ma veniamo al futuro. La costruzione dell'euro è fragile, c'è un bellissimo paper scaricabile, maggio 2011, Paul De Grove, dal suo sito, sulla fragilità di questa costruzione, perché dire che è vietato il bailout e poi i governi inducono Trichet a comprarsi la carta della Grecia, questa non doveva succedere, ma detto ciò, e questa è una grana che avrà Draghi, detto ciò, la Grecia va aiutata a crescere, non solo a picchiarla perché così espia i peccati commessi. L'atteggiamento della Merkel non ha futuro. Tu punisci il cattivo, ma un popolo non è mai cattivo. Anche gli italiani sono meglio del loro governo. Andiamo al dunque. Allora, tu devi aiutare la Grecia a crescere. Se no, può solo fallire. Ma allora esce dall'euro e allora tutto il castello di carte crolla. E poi non dite che è colpa dei greci. Oh, Antonio Ferrari, vista con la prospettiva di uno che conosce bene il paese, lo ha visto nelle sue evoluzioni di questi anni, può giudicare quanto fosse estesa la consapevolezza di essere un po' entrati truccando e soprattutto di aver continuato a stare nell'euro truccando, cioè di aver utilizzato le possibilità di credito a basso costo del tasso di interesse comune per non riordinare e reindirizzare l'economia greca. Rispetto alla condizione attuale, come la vedi questo anno e mezzo di ballo di fronte a cui i greci dicono ma dove ci state portando, per fare cosa, qual è la nostra colpa, in che cosa può sfociare? È molto giusto e molto vero quello che ha detto il professore della Cattolica prima, molto vero, perché qui tutti hanno così hanno agito al peggio, non cercando di sforzarsi verso il meglio. Ricordiamo una cosa, la Grecia ha cominciato a, come dire, a truccare le carte, magari in maniera un po' più timida all'inizio, durante il governo socialista di Kostas Simitis, praticamente vicini alle Olimpiadi del 2004, che sono state il momento della grande spesa, del grande successo, ma anche della grande spesa, come sappiamo, e l'inizio dell'indebitamento. Vero che i dati erano già stati lievemente gonfiati o meglio sgonfiati e passati al ribasso a Bruxelles, però non si era arrivati alle follie degli anni successivi, quando il governo conservatore ha fatto una politica veramente folle, secondo me per l'essere poco interessato a governare, dello stesso primo ministro Karamanlis, che lasciamo un po' troppo fare. Devo dire che quelli sono stati gli anni del peggiore governo della capacità di governare dei greci. Ora, è chiaro che tutti hanno sbagliato all'inizio, sicuramente hanno sbagliato in Europa e sicuramente hanno sbagliato a Atene, anche perché Papandreou, quando ha vinto le elezioni, troppo facilmente ha vinto queste elezioni. Karamanlis dice andiamo al voto contro l'opinione del suo stesso partito, al voto anticipato, probabilmente perché proprio le voleva perdere e voleva passare, diciamo, la mela marcia a Papandreou. Papandreou stravince le elezioni, ma per i primi mesi, ecco perché Oscar, quello che dicevi tu all'inizio è fondamentalmente vero, non fa nulla. Bisognava subito denunciare la cosa, bisognava subito agire e anche la Grecia non ha fatto assolutamente niente. C'era da dire che Papandreou è arrivato, appunto, ha vinto le elezioni su un'onda così di consapevolezza della gente che si stava affrontando una crisi seria, poco a poco venivano fuori le notizie, e Papandreou era popolarissimo, nonostante così i suoi appelli, dicendo dobbiamo stringere la cinghia, ci sarà lacrime e sangue, cure durissime, eccetera, però in realtà si faceva poco. Adesso, nel mese di giugno del 2011, siamo arrivati a questo, che i responsabili della crisi, diciamo della macro crisi, cioè quelli che hanno truccato pesantemente le carte, hanno superato lo stesso PASOK nei sondaggi popolari. Perché? Perché adesso tutte le colpe vengono attribuite a chi in questo momento deve prendere delle misure sempre, sempre più dure. Qui si parla di tagli degli stipendi, tra l'altro molto alti, fino all'anno scorso, fino a pochi mesi fa, erano circa del 12-13%, adesso si parla di tagli fino al 30-35%, si parla di una riduzione della diciamo dei lavoratori del settore pubblico di un quinto, disoccupazione alle stelle, produzione zero, perché questo è un paese che non produce, questa è l'amara realtà. A parte il turismo, che tra l'altro quest'anno pare che stia andando abbastanza bene, forse anche per il contenimento dei prezzi, e i noli marittimi, ma poi si scopre che le società di navigazione non pagano tasse, praticamente zero. Beh, io non so a questo punto dove si possa andare a finire. Papandreou ieri ci ha provato così a proporre un governo di unità nazionale, però tra un equivoco e un'ambiguità, e niente, il centrodestra non c'è stato, e allora lui stamattina farà questo rimpasto, non si capisce ancora bene come e con chi, se dovrà sacrificare il ministro dell'economia Papa Costantino. E comunque l'unica strada percorribile è quella dei sacrifici, e quindi io non so cosa succederà quando Papandreou chiederà la fiducia, perché anche all'interno del suo stesso partito c'è gente che dice non possiamo fare una politica così, cioè ci mangiamo tutto il sostegno popolare che già si sta sgretolando. E come sempre, di fronte alle difficoltà, quando si tratta di incidere il coltello e di parlare il linguaggio dell'amara verità, la politica, di fronte alle complessità del consenso, è molto imbarazzata a scegliere la via della verità conseguente fino alla fine. La verità è che la verità conseguente andrebbe battuta sempre, solo così non entra in contraddizione con i problemi del consenso. Chi pratica la via del consenso facile preferirà sempre non dire la verità, e sono quelli come quegli ascoltatori che mi dicono: ma perché improvvisamente attacchi Berlusconi? Dico: no, non attacco improvvisamente, io da anni attacco chi non mantiene le promesse, poi quanto più diventa grave il problema tanto più lo attacco. Mentre invece si preferisce dire: ma la convenienza è quella sempre di difendere una parte rispetto ai torti che sempre ha l'altra. Ecco, chi pratica questa seconda strada avrà sempre problemi con la verità, sia quando le cose vanno bene sia quando le cose vanno male. Eccoci qui per la seconda parte della rassegna di Oscar di oggi, giovedì 16 giugno. La crisi greca, la diluizione di l'azione per un anno e mezzo di un problema che era evidente nell'autunno del 2009, gli paesi eurodeboli con gli spread che schizzano sempre di più verso l'alto, facendo scommettere al mercato sul fatto che saltino entro il 2013, la tappa troppo avanti nella quale la politica europea ha stabilito un nuovo meccanismo di fondo comune per il salvataggio dei paesi a questo rischio, e spostando la data così avanti ha come dato al mercato la necessità di scommettere sul fatto che qualcosa di traumatico avverrà prima, e puntualmente è quello che sta avvenendo. Quindi la questione è: ci sono solo i politici dei paesi eurodeboli che hanno approfittato dell'euro, che non hanno detto la verità ai loro elettori, oppure la responsabilità è ancora più grave di quei grandi paesi europei che sin dall'inizio hanno scelto questa strada, diluire e dilazionare la perdita delle loro banche, che avevano i loro attivi patrimoniali pieni di carta di quei paesi, hanno preferito evitare quello per dire ai loro elettori, magari gonfiando i muscoli: noi non paghiamo per gli errori delle cicale. Eppure il problema comune è un problema ancora più grosso, perché le palle di neve quando rotolano sui declivi poi diventano slavine, ed ecco che fanno poi vittime serie. L'euro è a rischio, la BCE è molto esposta, i tedeschi per primi hanno determinato questa condizione nella quale la Banca Centrale Europea si trova a dover fronteggiare essa acquisti e garanzie collaterali di titoli del debito pubblico greco che rischiano di non valere più niente. Ricordo a tutti che la BCE aveva chiesto, nell'ambito delle nuove regole che sono state stabilite due mesi fa, quelle appunto che varranno dal 2013, avevano chiesto i banchieri centrali europei, Trichet, con energia di essere sollevati dal compito che è stato impropriamente chiesto di svolgere alla BCE in questi anni difficili, e cioè quelli di sostenere con acquisti sul mercato primario e secondario le emissioni del debito pubblico dei paesi europei. La BCE sostiene correttamente, secondo me, che poiché non c'è un debito pubblico europeo ma i debiti pubblici sono a garanzia nazionale all'atto dell'euro, ed è tutto improprio aver chiesto alla BCE questo, perché senza un meccanismo di responsabilità europea è una... È una cosa che i politici hanno chiesto alla BCE di fare, perché così non ci si impegna di fronte ai parlamenti a sostenere gli altri debiti pubblici, come nel caso tedesco, perché loro sarebbero impegnati a farsi autorizzare dal loro Parlamento, ma in questa maniera si altera il circuito della creazione di base monetaria da parte della Banca Centrale. La BCE aveva chiesto ai tedeschi: sollevateci da questo compito che stiamo svolgendo solo perché l'Europa resti in piedi, e la Merkel ha detto a Trichet: neanche per idea, voi dovrete continuare a sostenere con acquisti sul mercato primario e secondario i titoli dei paesi eurodeboli. Ed è un po' particolare che il paese che ci ha consegnato il modello di una banca centrale ortodossa, la grande Bundesbank, che non diceva mai sì ai politici per difendere il potere d'acquisto del marco, sia oggi il paese che umilia l'indipendenza invece della Banca Centrale Europea. Sarà una bella gatta da pelare per Mario Draghi, che succede a Trichet tra poco. Sentiamo come la pensano alcuni di voi ascoltatori. Mi rendo conto che la materia sia un po' tecnica a volte, vi possa sembrare un pochino così troppo per addetti ai lavori, ma guardate che la crisi dell'Europa è il punto più che ci accomuna e che ci rende vasi di coccio in questo mondo che corre per il resto più vicino al 5 che al 4% grazie all'Asia, in cui gli Stati Uniti comunque vanno molto meglio di più di metà dei paesi europei, per quanto abbiano i loro problemi. Sentiamo come la pensa per esempio Stefano, che chiama dalla provincia di Roma. Prego Stefano, dica. Sì, un saluto a tutti i partecipanti. Dunque, io penso che queste cose che lei enunciava e che io condivido perfettamente, innanzitutto potevano essere dette, diciamo, anche una ventina d'anni fa nello stesso modo, senza timore di essere smentiti, perché sono delle realtà economiche, politiche e culturali soprattutto ineludibili, cioè illudersi di prendere un pezzo di carta, scrivere un po' di nomi di paesi sopra e di dire abbiamo fatto la Comunità Europea, lo sappiamo a che cosa è servito. È servito a permettere a personaggi di dubbia liceità di vagare per l'Europa piazzando banche, spostando fabbriche, perché in realtà l'Europa non c'è e non ci sarà mai, secondo me, perché è un fatto culturale. Noi italiani abbiamo rimediato da questa situazione un'inflazione stimata intorno all'85%, cioè siamo diventati estremamente deboli dal punto di vista stipendiale, eccetera, eccetera. Questa è una realtà pure che non è contestabile. I greci lo sapevano, cioè lo sapevo anche io, che non sono, cioè lo sapevano tutti che vivevano al di sopra. Forse la Spagna può essere una sorpresa per la bolla immobiliare, ma lo sapevano tutti che i greci vivevano al di sopra delle loro possibilità, come peraltro per molto tempo abbiamo fatto anche noi. Quindi non vedo tutta questa sorpresa. Ecco, io condivido molto l'appello alla verità. Il discorso è questo però, che la maggior parte di quelli che non dicono la verità appartengono alla sua categoria, cioè giornalisti. Vabbè Stefano, però con questo criterio però non salviamo nessuno. Faccio fare solo un inciso. Lei dice che abbiamo con l'euro importato l'85% di inflazione, è un fatto incontestabile. Guardi, noi abbiamo un differenziale di inflazione da sempre prima di entrare nell'euro e restiamo caratterizzati da questa cosa. Facciamo qualunque indicatore di prezzi, prendiamo al consumo o prezzi a produzione industriale, noi abbiamo un problema che ci deriva dalle nostre catene distributive da una parte, dall'altra ci deriva dal nostro mix energetico, e quindi sui costi industriali per esempio questo contribuisce potentemente a un differenziale di inflazione. Quindi noi abbiamo problemi nostri anche, non creiamoci illusione solo che l'effetto cambio lira marco 1936, per così dire, sia stato quello che ci ha fatto importare inflazione. Quello ci ha fatto importare magari deflazione, ma non inflazione. Allora Stefano che chiama invece Marco che chiama dalla provincia di Milano. Prego Marco. Pronto, dottor Giannino, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Niente, volevo intervenire per la Grecia. Io sono per un po' le cose drastiche, cioè io la Grecia la lascerei andare. Primo, i soldi che daranno la Grecia possono darli alle strutture bancarie, anche se non le vedo molto, cioè un po' col fumo negli occhi. L'altra cosa, la Grecia lasciandola andare si ristrutturerà, poi quando avrà pagato, cioè internamente si sarà ristrutturata, potrà rientrare nell'euro con delle regole. Ora, lei solleva questa cosa, ma perché non pensare a un meccanismo di uscita transitoria, un po' di svalutazione monetaria e un po' di riallineamento poi di condizioni interne? Tobias Spiller, è così impensabile che alla fine, prima del 2013, si sia comunque costretti a mettere mano a un meccanismo di questo tipo che non era previsto nelle regole dell'euro? Tu che dici? Io penso che certamente sembra una cosa abbastanza pragmatica, ma ci saranno dei costi attaccati a questo. Se adesso si è scelto la strada di dire alla Grecia ti aiutiamo e poi tu devi fare le riforme e dopodiché rimani dentro l'unione monetaria, secondo me pragmaticamente la strada oggi è quella di andare avanti su questa, così di stare con i mezzi che si è scelto. Questo per primo. Prima o poi si deve avere un sistema dove un singolo paese può anche andare in fallimento senza che poi questo crei un effetto domino per tutta l'Unione Europea. In quel senso, certamente anche altri paesi che vorrebbero fare, diciamo, la cicala sarebbero anche ammoniti che non c'è questa strada così di sempre aspettare l'aiuto di Bruxelles. Trovo un po' inconsistente poi questa argomentazione che bisogna sempre stare con la verità e così via, perché quando c'erano dei esperti tedeschi, il primo Tietmeyer, che dicevano non far entrare la Grecia con questi numeri in unione monetaria, gli dicevano sei proprio fuori dal coro, sei singolare, tanto la Grecia non conta niente, sono quattro gatti. Poi se la Merkel così un anno fa avesse detto la Grecia deve subito ristrutturare il suo debito, l'avrebbero crocifisso. Adesso dicendo tutti questi argomenti perché non è stato fatto prima bene, dopo arriva quell'argomento sulla stessa scia, ma perché non pagate subito? Bisogna fare quel pozzo che sembra infinito, bisogna farlo valere subito da oggi e non dal 2013. No, così nel 2013 spero io che abbiamo tutti gli strumenti per farlo funzionare e averli bene, e sembra che in Europa bisogna costruirlo così, un po' a lungo purtroppo, allora fino a lì bisogna andare avanti con le proprie forze, bisogna anche sottolineare che ognuno deve stare sui propri piedi. Ricordo infine che specialmente in Scandinavia, ma anche in Germania, ci sono molti voci che non sono certamente tanto entusiasti dell'Unione Europea e dell'Europa. Anche i finlandesi adesso nelle elezioni hanno detto ci avete vessato, ci avete rotto le scatole per tanti anni con tutte le riforme che dovevamo fare per armonizzare la Finlandia con l'Europa, e poi scopriamo tutto questo casino della Grecia, e hanno votato un partito anti-Europa. Così per dire, anche i finlandesi possono essere leghisti e dire qua al sud ci sono i terroni, no? E allora che si vuole dire a loro? Che vogliamo dire a quei tedeschi che si vedono in un'opportunità di fare una delle riforme della tassazione, quella che un Berlusconi si potrebbe sognare, perché con la crescita sono arrivati i soldi, e il ministro Schäuble ha detto no, niente a kindergarten, niente riforma delle tasse, niente a investimenti, no, tutti questi soldi vanno alla Grecia. Allora, Piller ci fa fare un bagno severo di realtà dicendo facile criticare di fronte a problemi complessi, la verità è che nel bilancio delle cose da dire non conta solo la verità, conta il fatto che comunque la metti di fronte a situazioni complesse, ti attaccano duramente, attenti perché anche nel nord Europa si tira troppo la corda, perché noi in realtà stiamo dando una mano e gli aiuti li abbiamo dati l'anno scorso e quest'anno, e alla fine gli elettori poi dicono ragazzi, a noi piacerebbe avere anche un po' di queste risorse per noi, crescita e servizi, e invece le dobbiamo dare alle cicale. Questo è l'altro punto di vista, ma del resto Tobias Piller, per questo chiediamo sempre di riequilibrare il nostro di punto di vista. Ma se, come ci ha ricordato Tobias Piller, in realtà di fronte a questa situazione di crisi nei mercati dell'intermediazione finanziaria internazionale, ricordate, tutto cominciò di lì oramai parecchi anni fa, siamo a un'Europa che dà risposte guardando al proprio ambito nazionale dei singoli paesi membri, perché la realtà è che le banche le abbiamo salvate ciascuno con un criterio diverso, La risposta del sostegno della domanda di fronte alla crisi del commercio mondiale, ciascun paese l'ha data secondo le possibilità della propria finanza pubblica e secondo il punto di debito pubblico che aveva e la logica incrementale di deficit aggiuntivo che poteva assumere. Non ci sono stati piani condivisi di nessun tipo, praticamente per nessun settore identificato come settore fondamentale per la ripresa della crescita europea. Non c'è stata creazione di eurodebito né per sostenere le difficoltà dei paesi in crisi né magari per finanziare infrastrutture e investimenti, spese tanto più necessarie naturalmente di fronte alla crisi per accrescere la produttività e anche per impiego a breve sui mercati. Ecco, se la risposta di fronte alla crisi è stata sempre inequivocabilmente quella di arare solo ciascuno a casa propria, secondo le proprie convenienze, come giusto con la politica e possibilità di finanza pubblica, allora, professor Vaciago, è vero o non è vero che questa crisi spaccia in maniera definitiva l'idea che la moneta comune possa poi essere incubazione necessaria di un'Europa politica? Come si fa a fare un'Europa politica senza risorse condivise e senza leader politici che sappiano tutelare un interesse comune che è diverso per definizione da quello dei diversi stati nazionali? Allora, il passato è domestico, il futuro è unico, cioè europeo. Mai come oggi, lo vediamo in tutto il Nord Africa, mai come oggi il sogno di avere un'Europa sarebbe utile, perché i singoli paesi, anche la grande Germania da sola, sono perdenti rispetto al potere che ci sta in Asia. E quindi la leadership, e se c'è la capacità di guardare e governare e costruire il futuro dei nostri governi, la leadership è: dobbiamo cogliere questa crisi come un'opportunità per procedere sulla strada dell'integrazione, perché nessuno di noi, neanche Berlino, governerà il mondo, ma l'Europa oggi 500 milioni e passa, i più ricchi al mondo, i più potenti al mondo, quelli che hanno tutti insieme il sapere, le grandi università, la tecnologia, eccetera. Quindi siamo d'accordo, se ogni paese si chiude nel suo proprio e all'interno di ogni paese prevale il localismo, scompariamo dalla terra. È questo che i nostri governi sanno fare. Allora, torniamo al problema. Attenzione, la Grecia è il primo di una fila di paesi con problemi. Il giorno in cui i mercati portano a casa gli utili sulla Grecia, li reinvestono contro il Portogallo, già lo sappiamo, e poi toccherà all'Irlanda e poi al Belgio e poi alla Spagna e finalmente all'Italia. All'Italia. È questo che vogliamo? Lasciamo uscire la Grecia e dicendole ti aspettiamo fra qualche anno e dopo così discutiamo finalmente del Portogallo? Ragazzi, ma non è... Stiamo recitando una commedia o stiamo occupandoci del futuro dei nostri figli? Perché io vedo scherzi qui, non serietà. Allora, i problemi, gli errori del passato si superano non solo andando in chiesa, confessando i peccati e frustandosi sulla schiena, si superano anche con le nuove istituzioni. Abbiamo urgente bisogno di affiancare alla BCE, che deve continuare a fare il suo mestiere, un'analoga istituzione che si occupa dei problemi di stabilità finanziaria, più robusta del board istituito da gennaio, che è poco più dei 27 regolatori, più robusta del progetto che c'è in corso, che deve poter emettere titoli col suo rating di grande istituzione europea. Ma se non la fai l'istituzione, come fai a emettere eurobond emessi da chi? Cioè occorre un grande, non dirò fondo monetario perché tutti ridono dopo la vicenda Strauss-Kahn, ma chiamiamolo come vogliamo, ma occorre una istituzione gemella e che per piacere non stia a Francoforte, perché sennò ci confondiamo di nuovo le idee. Ci potremmo mettere Trichet a presiederla, che è giustissimo, e questo deve essere quello che aiuta, ma come la Banca Mondiale, non solo come il Fondo Monetario. Cioè la crisi non è di bilancio dei pagamenti, la crisi è mancata crescita. È mancata crescita. Ma aiutata la Grecia e subito dopo il Portogallo e prima o poi anche l'Italia, io spero, a tornare a crescere nell'interesse dei nostri figli, punto. Non nell'interesse delle banche. Ora, questo che sembrerebbe ordinario buonsenso, ma che è così diverso dalla realtà che abbiamo sotto i nostri occhi, la conclusione del professor Paciago, è la conclusione di ragionevolezza a cui secondo me bisognerebbe che tutti inducessero, ciascuno dal proprio punto di vista e per la propria possibilità di contribuire a risolvere i problemi. Quello che non è solo il problema di un paese, l'avete visto, non è solo il problema della Grecia, è il problema di tutti gli eurodeboli, di una fascia fondamentale di paesi europei e dell'idea stessa di Europa in un mondo che è completamente cambiato e che non ci aspetta. Le compartecipazioni di utili futuri condivisi sono la maniera di guardare a come si allocano risorse scarse, da quelli degli investimenti a quelli del lavoro. Se non ci sono politici capaci di unire l'interesse nazionale a quello comunque di una vasta area che solo insieme può pesare nel mondo nuovo, e bisognerà che questi politici ancora una volta saltino fuori. Guardatevi intorno e scioglietene di diversi. Questo è il mio consiglio anche oggi. Grazie a Tobias Spiller, grazie a Ciacqua Paciago, grazie a Antonio Ferrari, grazie a voi tutti. Linea Generale Radio, appuntamento a domani. 9 in punto.